English 24. Buonasera da Marta Cagnola. Anche questa sera, come tutti i sabati estivi, English 24 vi tiene compagnia riproponendovi una delle nostre interviste. Riascoltiamo insieme le interviste di Radio 24 a personalità in particolare della cultura e dello spettacolo con le quali abbiamo parlato, ovviamente in inglese, e insieme a Giulia Crivelli riascoltiamo i dialoghi con il nostro commento lessicale e grammaticale. Questa sera riascoltiamo insieme un'intervista andata in onda il 25 ottobre scorso con una scrittrice che abbiamo incontrato a Milano. Lei è australiana, è giornalista, corrispondente di guerra e ha vinto anche il premio Pulitzer. Conosciamola insieme, Geraldine Brooks. Questa sera Giulia andiamo in Australia, così ascoltiamo un po' di accento australiano. Parliamo di una scrittrice che si chiama Geraldine Brooks e del suo ultimo romanzo I custodi del libro. Questo romanzo narra la vera storia di un libro di preghiere ebraiche che si pensava ormai perso. L'intervista di Geraldine Brooks è di Alessandra Tedesco. It's inspired by an actually existing illuminated Hebrew manuscript that was created in Spain in the 14th century. And it still exists today because of a number of remarkable rescues. And some of these rescues we know about, and some of them we can only speculate about. So for me, it's the perfect kind of story where there's some facts from the past that you can use as scaffolding, but there are lots of voids in which you can let your imagination work. Allora, abbiamo sentito un po' l'accento di Geraldine Brooks, che è secondo me piuttosto facilmente comprensibile. Abbiamo sentito anche un accento irlandese, in questo mese un accento statunitense. Devo dire che in Australia forse sì, la comprensione dell'inglese potrebbe essere abbastanza semplice. Poi si vede senz'altro che è una Geraldine Brooks, è una donna che ha studiato, forse ha persino studiato anche un po' in Occidente, quindi è come se si percepisse che c'è qualche cosa di diverso, però non si riesce a individuare chiaramente una parola pronunciata in un modo talmente strano da farci dire è australiana. Esatto, però lo è. Geraldine Brooks australiana, ha spiegato ad Alessandra Tedesco, questa storia di questo ultimo romanzo che narra la vicenda di un libro di preghiere ebraiche, reale, esistito, esistente, veramente, che si pensava ormai perso. Esistente veramente, cioè è ispirato da una storia vera. Ecco, attenzione a it's inspired by an actually, perché actually non vuol dire attualmente, ma appunto veramente. Quindi è per una cosa che esiste veramente. Questo è un false friend, perché noi l'avverbio attualmente lo usiamo in tutt'altro contesto, proprio sempre temporale, quindi invece qui è per la verità, quindi è ispirato da un Hebrew manuscript. Hebrew è ebraico, sta per ebraico, Jewish anche vuol dire ebraico, però Hebrew fa più riferimento alla storia ebraica, mentre Jewish fa più riferimento a Israele, e in questo caso quindi il manoscritto era la storia si ispira a un manoscritto, ma il manoscritto esiste per davvero. Un manoscritto molto antico, dicevamo. Sì, from the 14th century, quindi come in italiano diciamo il 14° secolo, quindi 14th century, e questo manoscritto ha avuto delle disavventure, avventure incredibili, ed è stato soprattutto salvato. Remarkable rescues. To rescue si può usare sia per un, appunto, per un libro, per un oggetto, anche per una persona. Per esempio, non so, dei naufraghi nell'oceano possono essere rescued, e in questo caso questi salvataggi sono stati remarkable, cioè da sottolineare, perciò incredibili, strani, particolarmente avventurosi. E qui la storia un po' diventa realtà e un po' diventa finzione, non si sa tutto. Sì, perché some of them, i remarkable rescues, we know about, quindi di alcuni di essi sappiamo. Some of them we can only speculate about, ma invece ce ne sono altri sui quali possiamo soltanto speculare. Notate l'about messo sempre alla fine, mentre noi la particella la dobbiamo mettere all'inizio, no? Dei quali non sappiamo niente, sui quali possiamo speculare, gli inglesi possono metterla alla fine e rendere il tutto un po' più compatto, come tradizione di questa lingua. La signora Brooks ci spiega poi che questo tipo di storia è perfetto per un romanziere, perché insomma lascia libera la fantasia ma con degli appigli nella realtà. Lei come ha lavorato? Sì, questo è molto interessante, dà l'idea proprio dello scultore, nel senso della materia. Quindi c'è questa grande materia, e per questo è la perfect kind of story, quindi composta dai fatti, ma poi su questi fatti si può scaffolding, cioè si può lavorare, ma proprio nel senso di manipolarli, come fa lo scrittore con con la sua materia, perché tra questi fatti ci sono dei buchi, dei void. Void sta per varco, buco, gap, che non vuol dire avoid, che invece vuol dire evitare, con la A davanti. In questi voids, in questi buchi tra i fatti, tra la materia prima dei fatti, lo scrittore si insinua e poi li allarga a suo piacimento. E a questo punto vogliamo sapere da Geraldine Brooks cosa c'è di vero nel suo romanzo delle vicissitudini del manoscritto. It's a book full of beautiful illuminations, wonderful pictures, but this is at a time when Jewish teaching was against figurative art. So I wanted to imagine who was the creator of these beautiful pictures. And then we know that the book was in Venice in 1609 because an inquisitor, a censor working for the Pope's Inquisition in Venice, saved the book from being burned at that time. But we don't know why he did, and we don't know much about him. So I was free to also try and invent a story for him. And then the book crossed the Adriatic and ended up in the Jewish community in Sarajevo. And here we start to find some real facts. We know that it was saved from destruction by the Nazis during World War II. And then in the recent Bosnian War, it was once again saved by Muslim hands when a librarian risked his life and went in under heavy shelling. Allora, un libro molto particolare, questo manoscritto realmente esistito, con delle caratteristiche precise che Geraldine Brooks ci spiega. Sì, è qui interessante, no? Sappiamo che ci sono le religioni che non hanno mai avuto problemi a cercare di immaginare l'aspetto dei propri dei, e questo libro che aveva molti pictures, molte immagini, in realtà in un tempo in cui la Jewish religion era against the figurative aspects of religion, cioè la religione era contraria all'aspetto figurativo, no? Sappiamo, Dio non si può rappresentare perché inevitabilmente lo immagineremmo come uno di noi, e l'idea è non possiamo nemmeno tentare di immaginarcelo, è qualcosa che va al di là delle nostre capacità figurative, per l'appunto. Quindi è nato in maniera molto strana, però ha continuato a scontrarsi con la realtà, ad esempio all'inizio del 1600 con l'Inquisizione. E qui notiamo sempre il modo che hanno, questo anche gli australiani, esattamente come gli americani, di dire 1609, non dicono come noi 1609, ma dicono 1609, 1609. Quindi nel 1609 in Venice an inquisitor, un inquisitore, a censor, che was working for the Pope's Inquisition, per la terribile Inquisizione di quegli anni, ebbene questo signore, nonostante fosse un inquisitore del Papa e quindi sicuramente il mandato era distruggi tutto quello che non è di religione cattolica, però lui invece saved the book from being burned, ha salvato il libro dall'essere bruciato. We don't know why we did, non sappiamo perché l'ha fatto. Quindi lei, she was free to try to invent a story for him, si è inventata, appunto, ha deciso di spiegare lei al lettore perché questo signore avrebbe fatto questo gesto di grande eroismo librario, diciamo così. In seguito, nella storia di questo manoscritto, ci sono dei fatti attestati, quindi she starts to find some real facts, sì, dei perché fatti veri. Il libro, un po' come in una diaspora appunto ebraica, poi se ne va da Venezia, attraversa l'Adriatico, cross the Adriatic, e lo si trova poi nella ex Jugoslavia. E lì, once again saved by Muslim hands, e questo è un fact, cioè che il libro è stato di nuovo salvato, questa volta da mani musulmane. Eh sì, perché gli uomini che hanno salvato il libro sono importantissimi nel racconto e nella storia reale del manoscritto. Ecco come Geraldine Brooks parla di loro. These two saviors epitomize one of the themes of the book, which is that even in times when propaganda arises to try and divide us from each other, to demonize somebody who is different, the other, amongst us, there are always a few people who can see through this and who understand that what unites us as human beings is greater than what divides us. And these two actually historical figures, Dervish Korkut in World War II and Enver Imamovic during the recent Bosnian War, are these kind of people who are able to stand against the demonization of the other and say, no, this is our common artistic human heritage. In questo brano che abbiamo scelto dall'intervista di Alessandra Tedesco ci sono alcune espressioni un po' difficili e ora le spiegheremo tutto. Intanto parla di due saviors. Saviors, che è un'alternativa a savers, anche to save, salvare. Saver è colui che salva. Però savior è un salvatore, diciamo, ha un carattere un po' più aulico. Quindi questi, appunto, lei li definisce saviors, coloro che sono questi due personaggi che hanno salvato letteralmente il prezioso manoscritto. Epitomized, questo è un verbo veramente che rappresenta una sfida. Sì, to epitomize, che è scritto appunto con la Z E finale, significa essere il simbolo vivente. Il simbolo vivente di uno dei temi, o one of the themes of the book. Secondo l'autrice, quindi sono i suoi eroi, perché sono quello che lei vuole, il messaggio che lei vuol dare col libro. E qual è questo messaggio? That even in times when propaganda arises, quindi anche in momenti, in tempi in cui la propaganda, naturalmente qui è intesa come propaganda politica, ideologica, arises, quindi conquista una posizione di rilievo, perché to arise vuol dire salire, come to rise, eccetera, ma in questo caso se una propaganda rises vuol dire proprio che arriva a un livello in cui ci sovrasta tutti, perché to demonize the other, per demonizzare l'altro, il diverso in generale. E quindi this kind of people, questo tipo di persone, stand against questa... They stand against this demonization perché they can see through this, cioè sono riescono a vedere attraverso questo processo, cioè a vederne tutta la negatività e quindi a opporvisi, to stand against this demonization. È tutto per questa puntata di English 24. Un saluto da Marta Cagnola. L'appuntamento è in edicola con la nostra rivista e in radio ancora sabato prossimo alla stessa ora.